pareva pigliato dal fuoco di Sant'Antonio. Pace in Bornone faceva salti ora su un piede, ora sull'altro. Era diventato così rosso in faccia che uno volendo ci poteva cuocere un uovo. Dentro la torretta assomigliava a un corvo chiuso in una gabbia troppo piccola. Temendo che gli pigliasse un colpo, Le Monnier si provò a confortarlo. «Stia calmo», disse. «Ci vorrà ancora del tempo prima che si raccolgono i feriti e i morti alle trasporti navigata». Pace in Bornone si bloccò, lo togliò interrogativo. Pure Simone Curtò de Baucina a quell'uscita fece la faccia di chi non capisce. «Dico», si sentì in dovere di precisare Le Monnier, provando però un lieve formicolio di disagio, «che ci vorrà sicuramente un po' di tempo prima che i marinai russi possano giovarsi del suo conforto, del suo magistero». Prima di rispondergli, Pace in Bornone alzò gli occhi al cielo domandando a Dio pazienza per questo piemontese azzaurdo che non capiva niente di niente. «Ca quale magistero?» esplose. «Io mi voglio godere la faccia di tutti i paesani che se la sono presa nel culo! Non mi voglio perdere la farsa!» E si precipitò svolazzando giù per le scale. Il letto è una gran cosa. Se non si dorme, si riposa, diceva il proverbio, ma furono in tanti né a dormire e né a riposare. Ignazio Xerri, che a forza di camomilla era riuscito a pinnecunarsi, verso le 3 fece pigliare un moto a sua moglie mettendosi a fare voci che c'era un gatto con gli occhi grossi come 2 arance che solo voleva mangiare vivo. Pasqualino Patti tanto si girò e rigirò nel letto che a un certo punto la signora Teresina agguantò il suo materasso e se l'andò a stendere in cucina. Michele Navarria, dopo ore di vuota e svuota, vista la mala parata, si rivestì di tutto punto, cappello compreso, si sedette a capo del letto e cominciò una letania di Santione che durò fino all'alba. Cicciolo Cascio manco si spogliò, tanto lo sapeva che quella per lui e per gli altri magazzinieri sarebbe stata una mezzanotte di Natale. Vuol dire che me godo la frescanzana, e si mise alla finestra a fumare. Magari la signora Elke dormì, per modo di dire. Il letto le pareva pieno di spuntature e di groppi duri come pietre. Appena riusciva ad assopirsi, sognava subito di cadere. E ogni volta che si svegliava di soprassalto, aprendo gli occhi, incontrava quelli di Stefanuzzo sparluccicanti per la febbre e per i riflessi dei 100 lumini. Stava suo marito tutto fasciato che pareva una ricotta dentro la cavagna. Voltato sul fianco destro, il gomito appoggiato al cuscino e la mano a reggere la testa, e sembra la tagliava fisso fisso. Si sforzava di parere calma la signora Elke, ma dentro di lei lo scanto aumentava di minuto in minuto. Era quasi sicuro che Stefanuzzo non aveva visto niente di preciso, ma allora perché non le levava gli occhi da sopra? Continuava invece a tagliarla perché gli stava capitando una cosa curiosa che gli faceva vergogna a pensarla. Figuriamoci a dirla. Forse era il sollievo per lo scampato pericolo. Forse era a causa della zottata che si era dato. Forse era l'esaltazione per il miracolo ricevuto. Sua moglie finalmente aveva preso sonno e non poteva immaginare a sua volta che Elke, piuttosto che mostrarle la sua agitazione con un continuo appennegonarsi e risvegliarsi, aveva deciso di far finta. E il suo respiro regolare, la curva che faceva il fianco sotto il lenzuolo, i capelli biondi sul cuscino, rinfocolavano la cosa stramma che gli stava succedendo e che non sapeva come spiegarsi. «Elke!» Lei non rispose, agelata. Era arrivata l'ora della spiegazione.